Sexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Carlo Noseda, amministratore delegato di MC Sacci, ma soprattutto oggi ai nostri microfoni nella veste di presidente di IAB Italia. Carlo, buongiorno. Buongiorno a tutti. È appena finito IAB Italia, una prima conclusione, tiriamo un attimo le somme, com'è andata? Si è conclusa la 17ª edizione di IAB Forum, il più importante evento digitale in Italia. Pensa che è addirittura il quarto a livello europeo. E per numero di persone che partecipano. Numero di affluenza, sia di persone che di aziende. È un evento che nel corso degli anni è diventato sempre più aperto e sempre più inclusivo, un po' come vuole essere anche il digitale, e sono state due giornate molto molto intense con un'agenda ricca, variegata e tantissimi spunti nazionali e internazionali. Quali sono gli outcome che sono emersi da questa 17ª edizione? Ma abbiamo avuto spunti, appunto, come dicevo prima, sia di grandi italiani che hanno fatto bene nel mondo. Abbiamo avuto Faggin che insieme a Corrado Passera hanno parlato della loro esperienza e l'hanno raccontata a tutta la platea. Abbiamo avuto Baricco che ha raccontato The Game, quindi ha un po' illustrato la storia di quello che è stato il digitale da quando era una rivoluzione fino ai giorni nostri, confrontando anche il secolo in cui viviamo con il secolo precedente. Ma la cosa più interessante, a mio avviso, è aver dato una consapevolezza di quello che è il ruolo dell'uomo all'interno di questa trasformazione. Cioè, alla fine siamo comunque noi che abbiamo inventato questa tecnologia e dobbiamo essere noi a guidarla. Mi è parso dalle parole tue, ma anche dalle parole di altri speaker intervenuti, un po' un elemento di attenzione. Il fatto che la pubblicità digitale sta crescendo, ma rimane sempre più nelle mani dei pochi driver che la stanno un po' guidando, e c'è una necessità di trovare una nuova quadra per fare in modo che questo non sia un mercato che si spenga e diventi solo un mercato di accolta di offerta che viene da fuori e non di creazione di offerta da dentro. È corretto, è un tema che già l'anno scorso avevamo portato a IAB Forum. Giusto per dare una panoramica, il mercato della digital advertising, quindi della pubblicità online per essere semplici, cresce di anno in anno da quando è nato il primo banner. Quest'anno fa più 9% rispetto all'anno precedente, vuol dire circa 3,3 miliardi di euro investiti online. È un numero significativo, ma una gran parte di questi miliardi finiscono nelle mani di quelli che sono gli over the top. Over the top vuol dire Facebook, Google e così via. Il tema che abbiamo posto è quello di garantire una equità e trasparenza all'interno del mercato. Quindi l'appello alle istituzioni è proprio quello di, se vogliamo che questo mercato continui a crescere, è fondamentale che anche piccole aziende e aziende italiane siano messe nelle condizioni di competere ad armi pari con questi colossi. Quanto è importante oggi la tecnologia e quanto le aziende investitrici, quindi le aziende di manifattura, gli FMCG, devono dotarsi di competenze interne, e quanto invece la pubblicità invece è ancora un outsourcing completo dal tuo punto di vista? Beh, il tema delle competenze è cruciale, l'abbiamo affrontato. Probabilmente non ci sono abbastanza professionalità formate per gestire questa trasformazione. Il digital scientist, di cui oggi si sente tanto parlare, fino a pochi anni fa era una figura sconosciuta. Sono anche cambiate proprio le job description delle persone di cui oggi si va cercando. Quindi tecnologia sì, bisogna saperla usare, ed è un fattore determinante competitivo oggi nelle aziende, perché la tecnologia semplifica i processi e oggi per essere veloci bisogna essere semplici. Se tu dovessi pensare a qualcosa da migliorare per il prossimo anno e che dia una ragione in più a chi non è venuto quest'anno per venire l'anno prossimo, che cosa faresti di diverso? Continuerei nel solco di quello che abbiamo fatto e mi ricollego al tema delle professionalità. L'ambizione che avevamo quando abbiamo preso questo incarico di dirigere questa associazione era quello di aprirla e di crescere alla stessa velocità con cui cresce il digitale, per cui vedere in aula, in stanza quest'anno, in sala, in aula magna, c'erano quasi 2000 persone, vedere tanti ragazzi che sono venuti a capire se questo può essere il lavoro da fare da grandi è, È stato molto bello perché vuol dire che stiamo attraendo talenti. La nostra è un'industria fatta di tecnologie, ma governata da persone. Talenti uguale crescita, uguale potenziale. Quindi l'anno prossimo mi piacerebbe vedere ancora più ragazzi. Tra l'altro, IAB ha anche una bella academy di formazione, no? Assolutamente, è nata ormai qualche anno fa, si chiama proprio IAB Academy e ha questo obiettivo, quello di contribuire alla cultura della diffusione digitale, quindi tanta formazione, tanto approfondimento, tanta certificazione, perché poi alla fine le professionalità vanno certificate, perché insomma se uno ha un attestato è giusto che se ne vanti. E quest'anno abbiamo lanciato una grande novità perché, ricollegandomi al tema del mercato, il mercato cresce per il formato video, perché è il formato che viaggia di più sulla rete, ma un dato interessante è anche quello dell'audio. Infatti abbiamo lanciato questo slogan che è un po' video is the king, but audio is the new queen. Okay? Per cui alla fine audio, nuovo formato che ci farà divertire, e abbiamo lanciato i podcast di IAB Italia con tanta formazione, l'abbiamo registrata durante IAB Forum, per cui un altro modo per mentre stai guidando, mentre sei in treno, mentre sei in tram, che vai a scuola, in ufficio. Per Quindi ascoltare. La tecnologia tendenzialmente potremmo dirci che sta abilitando un modo diverso di fare cose che facevamo prima, la televisione e la radio che si staccano dai device tradizionali, diventano più liquide, vengono governate dalle persone, ma tornano ad essere i protagonisti per una semplicità di fruizione, per un'immediatezza del linguaggio, per un coinvolgimento emotivo più del testo. Si è sempre visto più film che non letto libri nella vita, tendenzialmente, non è inutile che ci nascondiamo dietro a un dito. Ecco, il portafoglio dei mezzi, come sta cambiando? Hai citato il video come primo source, avete inserito il podcast, quindi l'audio incomincia a entrare all'interno del panel, e il resto cosa sta accadendo? Beh, intanto tutto sta diventando sempre più digitale, questo è anche un motivo per cui è un mercato che è destinato a crescere. La televisione è digitale, proprio qualche giorno fa Sky ha lanciato la possibilità di utilizzare la voce all'interno delle loro pubblicità. Hanno Sky Q con il remote control, col telecomando, parlando posso attivare delle cose, quindi video, immagini, digitale, l'outdoor sta diventando sempre più digitale, la radio è digitale, e quindi sono tutti mezzi che si connettono uno all'altro, per cui adesso la grande qualità che devono avere le aziende e chi fa il mestiere del comunicatore è quello di riuscire a creare un'ottima sinergia di questi messaggi di comunicazione senza ripetere sempre le stesse cose, ma ogni volta cambiando messaggio. E allora qual è il ruolo della creatività in questo processo sempre più tecnologico e sempre più volto a cercare di far vedere un brand ad un cliente in tutti i momenti in cui una piattaforma pensa o ritiene che sia il modo di farglielo vedere, il momento di farglielo vedere? La creatività è e rimarrà sempre il vero abilitatore di tutte le tecnologie, di tutti i mezzi, è al cuore di tutto. E proprio in occasione di IAB Forum, dove abbiamo ospitato varie voci, una di queste era Gucci, che è un brand di moda, è un brand che si evolve molto velocemente, e creatività in tutto quello che fanno, creatività dai negozi, creatività sulle pagine stampa, creatività online, creatività nell'abbigliamento, quindi è il vero abilitatore. Il tema è qual è la narrativa che io utilizzo poi per far arrivare questa creatività, e deve essere assolutamente coerente con quella che è la mia marca. Io esisto per quel motivo e devo riuscire a raccontarlo nel modo più fedele possibile. Come stanno invece evolvendo i touch point? Prima hai citato l'out of home, sta cambiando, sta diventando digitale anche quello. Si riesce a costruire delle campagne veramente sinergiche tra non tanto on e offline, ma tra fisico e digitale? È una sfida molto ambiziosa, il tentativo c'è, ovviamente si sta anche imparando ad approfittare di questa enorme connessione e connettività. Abbiamo sentito in questi ultimi anni parlare tanto di advertising of things, che nasce da Internet of Things. Tutti gli oggetti iniziano a essere collegati alla rete, no? Il frigorifero, l'aspirapolvere, il telefono, la macchina, eccetera, eccetera. Quindi tutti questi oggetti diventano effettivamente dei touch point. Il tema qual è? È quello di non abusare di questo enorme potere che avremo nelle nostre mani. Il tema è quindi quello di c'è un tema anche di etica e di consapevolezza che stiamo anche cercando di diffondere, per dire abbiamo dei grandi poteri, ma cerchiamo anche di usarli nel modo corretto. Ora ti faccio una domanda più per il Carlo Noseda, amministratore delegato di MCN Saatchi. Dal tuo punto di vista, in un mondo in cui il consumatore, il cliente è bombardato dai brand, come si fa a diventare rilevanti, efficaci? Parto da questo dato di una ricerca condotta recentemente che dice che se il 76% delle marche oggi sparisse, alle persone non interesserebbe. Non se ne accorgerebbero. No, non abbiamo tutto questo bisogno e tutta questa fedeltà nei confronti delle marche che usiamo tutti i giorni. Anzi, se andiamo poi a vedere anche sullo schermo del telefonino quali sono i brand che sono entrati nella nostra vita, forse 10 anni fa. Neanche esistevano. E magari fra 20 anni non ci saranno più. Ah, sicuro, probabile. Insomma, il tema qual è? È quello del rispondere alla semplicissima domanda del perché questo brand esiste, che è quello che in marketing si chiama purpose, che è la ragion d'essere, e bisogna sempre averla presente, perché se voglio che una persona mi compri o mi utilizzi, specialmente le nuove generazioni, devo essere in grado di rappresentare qualcosa. Per i ragazzi nuovi che entrano nel mercato e che iniziano a acquistare le cose, ogni prodotto è una maglietta che possono potenzialmente indossare e che dice al mondo qualcosa. Compro quell'auto perché sono sostenibile. Compro quel cibo perché so che arriva da una parte buona del mondo. Quindi il ruolo delle marche è fondamentale. C'è spazio per dei piccoli inserzionisti in questo mondo che è guidato lato offerta dai giganti, ma anche lato domanda dai grandi acquirenti di pubblicità? Sì, così come c'è spazio per chiunque oggi per avere il suo piccolo palcoscenico, perché se pensiamo a... E questo è un esempio che faceva Baricco proprio in occasione di Yap Forum. Il secolo del Novecento lui l'ha definito un secolo ad alta densità, dove le informazioni erano nelle mani di pochi, dove i denari e le opinioni si muovevano molto lentamente, dove anche viaggiare era molto difficile. Oggi invece siamo in un secolo a bassa densità, dove invece tutto questo è molto rapido e molto veloce. Quindi ha fatto questo esempio, ho trovato molto bello, ha detto per viaggiare in questo secolo bisogna essere aerodinamici. Che cosa significa essere aerodinamici? Vuol dire riuscire a viaggiare senza avere troppi spigoli ed essere quindi capace di andare veloce da A a B. E Greta è un fenomeno aerodinamico, è una ragazza che dice cose facili, comprensibili, chiare, trasparenti, e quindi piace. È riuscita peraltro a raccogliere attorno a sé un interesse enorme, enorme, colmando un vuoto, perché non c'era nessuno che in maniera così semplice, è riuscito a farlo. Quindi gli inserzionisti piccoli hanno tutte le chance del mondo, perché possono anche loro, se riescono ad avere questa forma aerodinamica, riescono. E come fa allora un produttore del Made in Italy a avvicinarsi a questi strumenti, a queste modalità di comunicazione, dove io vedo insomma un forte desiderio ma anche una forte necessità di essere guidati? Cioè, qual è il ruolo di IAB da questo punto di vista? IAB deve ispirare il cambiamento, deve dare strumenti alle persone per poterlo poi attualizzare. IAB Forum è questo, infatti gli oltre 30 speaker che abbiamo invitato a parlare, senza contare i workshop che sono stati fatti nel pomeriggio, servivano proprio a, abbiamo detto in apertura, prendiamo più appunti possibili e dal giorno successivo iniziamo ad implementare quello che abbiamo ascoltato. Ecco, il suggerimento da dare alle aziende italiane è quello che la creatività non ci manca. Ce l'abbiamo da sempre, anzi vengono da tutte le parti del mondo per comprarla. Ci manca forse un po' di coraggio, non siamo, specialmente la nostra, una generazione che è stata cresciuta con la consapevolezza di poter sbagliare. Sbagliare è cattivo, è brutto, se sbagli, se fallisci, pensa alla parola fallire, no? Fallire, ci sono i registri dei falliti, una roba orrenda, no? Sei marchiato. In America fallisci velocemente, in fretta. E soprattutto se non fallisci non ti finanziano. Non ti finanziano al secondo giro. Quando vai a presentare la tua idea da questi grandi hedge fund vogliono sapere se hai già sbagliato, perché vuol dire che probabilmente sbaglierai di meno. Quindi io sono per chi non fa non sbaglia, per cui ogni tanto proviamoci. Era Carlo Noseda, amministratore delegato di MCN Sacci e presidente di IAB Italia. Grazie mille Carlo per essere stato con noi. Grazie a tutti. Ti aspettiamo ovviamente l'anno prossimo per raccontarci nuovamente IAB Forum 18ª edizione. Grazie, io vi aspetto tutti a IAB Forum dell'anno prossimo. E ringraziamo anche i nostri ascoltatori per essere stati con noi ad ascoltare le parole di Carlo Noseda a proposito dello IAB Forum che si è tenuto 2 settimane fa a Milano. Come sempre, per qualsiasi domanda, proposta o idea potete scriverci alla nostra indirizzo di mail che è radionext@radio24.it. Un saluto da Pepe Modena.